Job 24. Bentrovati all'ascolto di Job 24. Oggi ci rivolgiamo ai laureati o laureandi nelle cosiddette discipline deboli, come possono essere quelle umanistiche. Si tratta di corsi di laurea di sicuro interesse, di sicuro fascino. Io stessa mi sono iscritta a lettere senza mai pentirmene, però si sa, difficilmente spendibili nel mondo del lavoro. Adesso ai letterati un'opportunità in più è data dall'informatica, perché ormai anche la cultura si sta spostando su internet e sempre più si sta affidando agli strumenti tecnologici. Per questo ad Arezzo sta per partire la seconda edizione di un master che forma, diciamo, l'informatico umanista. Ce ne parla Francesco Stella, docente di informatica del test all'Università di Siena e coordinatore del master. L'informatica umanistica tratta sostanzialmente di quegli operatori del mondo che si occupa di storia, di letteratura, di archivi, di biblioteche, di storia dell'arte, di archeologia, attraverso procedure che prevedono competenze informatiche o l'uso di attrezzature informatiche e che quindi di solito richiedono la capacità di utilizzare strumenti non soltanto bibliografici e non soltanto testuali. Ma perché ormai ai letterati, ai bibliotecari, agli archivisti, agli studiosi, ai ricercatori serve l'informatica? Perché piano piano, da strumento universale ormai, non solo per noi ma per tutte le categorie, l'informatica sta anche creando delle proprie metodologie che influiscono su come le discipline si sviluppano e che aprono prospettive assolutamente nuove. Per esempio? Nel campo in particolare dell'archivistica o della ricerca sui manoscritti antichi o della biblioteconomia, la digitalizzazione di tutto il patrimonio culturale, soprattutto in questo caso di testi e documenti, che piano piano si sta realizzando come progetti UNESCO, come progetti europei o come progetti nazionali o locali, comporta e impone anzi la ricerca di personale che riesca a conciliare le due competenze e tuttavia non trova spesso questa preparazione nel personale già esistente nelle istituzioni, appunto biblioteche, archivi, ma anche nella ricerca letteraria o filologica. Per questo si rende sempre più indispensabile formare personale che aggiunga le competenze letterarie e la capacità di operare appunto in ambiente web, di creare siti, di creare database, di sviluppare edizioni con strumenti che appunto prima non si utilizzavano e quindi o di riqualificare il personale esistente oppure di creare professionalità nuove. Questo è uno dei risvolti dell'applicazione di questo tipo di informatica. L'altro poi è invece più specificamente librario ed è quello che vediamo emergere nel mondo dell'editoria. Ogni volta che a una fiera del libro si discute dell'oggetto del presente o del futuro, che è il libro elettronico e che fra un poco per legge sarà anche la forma principale del libro scolastico. In questo caso nelle aziende editoriali è in atto una rivoluzione vera e propria che si attua con grande difficoltà proprio perché il personale che di solito lavora in queste aziende di rado si trova ad avere una preparazione anche nell'informatica che è resa necessaria da questi sviluppi. C'è quindi da pensare che le già purtroppo scarse possibilità che hanno i laureati in discipline umanistiche di trovare un impiego in una casa editrice, in una biblioteca, di collaborare con un'istituzione museale, si riducono davvero al lumicino senza competenze informatiche? Sicuramente, già ora le lauree in lettere prevedono quasi sempre un esame di informatica come l'esame di inglese, che sono un po' obbligatori per agevolare le possibilità di professionalizzazione e di impiego dei laureati. Credo che però al di là di questo livello di alfabetizzazione informatica che alla fine riguarda poi tutti i cittadini, chi avrà la possibilità di crearsi una formazione più specifica e più mirata alle esigenze delle case editrici o delle biblioteche o degli archivi avrà sicuramente una carta in più per offrire la propria professionalità. Grazie Francesco Stella, coordinatore del master di primo livello in informatica del testo ed edizione elettronica, questa è la dicitura corretta, un master organizzato dalle facoltà di ingegneria e di lettere e filosofia di Arezzo con diverse collaborazioni. Alle informazioni ci si arriva attraverso il sito dell'Università di Siena, che si trova facilmente con un motore di ricerca e qui poi si clicca su post laurea, oppure direttamente a questo sito www.infotext.unisi.it. E anche questa puntata sarà archiviata nel nostro di portale www.radio24.it. Ritrovatela se volete nell'archivio di Gio 24. Noi ci sentiamo domani. Un saluto da Roberta Pellegatta. Hi-ho! Hi-ho!